Manuele! Manuele! Perché? Oh Marillo, buonasera. C'è qualcuno qua, per cavolo c'è nessuno. Buonasera Cole, ma ascolti, sì, cosa c'è, un portate, a volte ci ha tratti. Cosa lo portate, ma ascolti, sì. Già non ti accorto io, non è venuta a corsa. E anche lì non sotto al letto. Anche lì non sotto al letto. Uia, uia, uscite da tutti, Manuel! Ora, ora! Aspetta, coraggio! Che fai tu, Gì? Ho già preparato un po' di polpi con patate, aliata. Siamo da te! E per sentire di te mettere la carbonara. Eia, andiamo via, andiamo! Dai, dai! Dai, dai! E cosa devo dire? Niente! Se tu sei a ritare da una volta, ti lascia andare! Hai ragione! Come ti corresse oggi, non si mangia niente? Certo, questa è la bilancia che ha cercato, se ti va da buio! Niente! Se fa da me così! Vabbè, andiamo bene, andiamo. Gio Maria, dov'è Gio Maria? Non scatto. Vabbè, ti aggredo. Sì, gli sono portato, gli è vera. Se ne è occupato? Aspetta un attimo, non so, ma so di nuovo. Aspetta, sì. Sì, so di nuovo. Sì, anche adesso. Ah, gli si carichi, vai! Sono 50 anni come la chiesa. 50 anni va? 50 anni. Vai tu, 50 anni. Certo. Ma magari di 40 anni a Ronda. Che ci... che quale assillo? Allora sì. Allora già di quelli. Ui, che andiamo bene, andiamo. Chissà si entra Gio Maria, boh? Pagare! Ma buon Natale, buonasera! Io che ando a Natale, ui ui! Anticipato sì! Nato anticipato, per cui sono uscito adesso! Già piazzato il volo, già consegnato sto! Andare! Già va bene così! Ah, c'è la Manuele! Stava a mangiare, chi? Vediamo che stia mangiando il gamberone. A che due è? A mazza di gamberoni. Ah, va poi tu, va! Poi tu, e permette... non mi metto più. Ah, carbonara! Sarà porca insalata con le patate, Emanuele. No, polpi mi ha detto. Mangiato polpi a insalata. E per me te... con cosa? La carbonara. Si tiene bene, già è tipo la forchetta. Fa bene, certo. Ma ora mangia e beve se ne frega. c'è più, e che è più come si è detto. Non mi ha detto che tanta una raluccia l'ha detto. Esatto, ma che sto schiccando. Io ho schiccato Rubizzo. Certo, se Rubizzo mi fa dire fatto venire. E senti un colesterolo? No. A me la dottoressa mi ha detto che faccio ma basso, ma basso, basso. Ah, sarò bagliato che sei stammato. Che devi essere stammato di verità. Che ancora minori. Sì, io già. A se che minori, dopo andiamo. E poi c'è tutti come si è detto, ma c'è bisogno si va tutto, boh, che belletto, guarda, capo a te. Ah, che debita, ma se non gli faccio problemi, eh. E allora, che deve capare i figliori, infatti, non li ha problemi lui. Lui spesso a mangiare a bere, boh. E io ti credo. E io non penso. Mi dice, sali e una volta. Basta là. Che ancora alla fede, cazzo, Manuele. Certo. E si manca il latte, toccavo di sui, Ah, sì. Manuele, già siamo fuori da livello, non ti preoccupare. La minestra è già pronta. Allora ho fatto un po' di pulpi con le patate insalata, un po' di pennette alla carbonara, le zucche di pennette alla carbonara, tante le guilline. E mezzo mari, buonasera. Insomma, allora, avrai immaginato, mi stai mangiando il polpo con un passato insalata, è tutta, E infatti Antonio glielo stavo spiegando, io ancora devo lottare tu, così che devi mangiare bene, certo, alla faccia che non ci lo fu. Sì, ma lì, sono salito sulla bilancia a pomeriggio, cazzo, questa è la bilancia si scrivano. Io non posso immaginare, non posso immaginare, oh ya, yeah. Vai, e mi hanno approfittato, Tu approfittare perché la cosa come fa se ti salti sì, infatti lo so, a parte di scherzo adesso stavo scherzando, devo abbassare il peso, almeno 20-30 kg, ma una maraula e basta bere più poco, tu faccio basta la gara e mangi più poco, certo. Oh yeah, perché ha messo il mattato con il morfo, oh yeah, cazzo, non so, anche il maggiorese, da voi uno si deve lamentare. Questo è colesterolo, perché tu asci proprio, non è colesterolo, ma è colesterolo. Tutto bambino, non è colesterolo, è tutto bambino, dice Manuele. Se stiamo a guardare tutto, non mangiamo più, non viviamo più. Ma così, quando c'è il 22 è troppo. Certo, a bilancia di 7 dici di alzare una ravuta, pensa un po'. Sì, vabbè, una volta solo si vive, cosa devi fare? Tutto il canto che mi vuole ammazzare, che è, non vuole ammazzare aiuto. Questo è necessario da voi. A voi ne avete già venduto, Cosa ne pensa lui? La cosa è certa. La tua fame mangia. Poi specialmente come sei tu, di buona forchetta, per cui mangia fuggitini. E poi i cammini si accostano a barrio. A pensare dopo, parlo di 20 anni fa, vabbè, negli anni cambiamo, negli anni. Pensare che pensavo 48 kg, si viveva solo un pantalone di puletti. Cos'è? Un po' di giccia già fino a lì. Oh, sono rossi i civiliani. No, proprio male. La cosa era la pallina. peggio di me allora, certo. Ma tu non scherzo, ma dove si affronta, dove si vuole di e poi ci fai io me, cioè che hanno fatto la mezzo, tu ce con i biondi. Tu, per carità, ma così era troppo male, avevo così per caro, che ti guarda, ma è sporano, dopo non si apporto, ma non mi ero sposato, a fermentare, piano piano, piano piano. Vabbè, vabbè, ognuno è la mia costituzione così. Antonio Giovanni, ah, è diventato un pandoro. Basta a fare. Basta i due, anche il fratello è. Anche Dio, cazzo, è bello piazzato, L'altro Roma, è di lui sono belli piazzati, Così è Manuè. Sì, io e Emilio, sì, sì. E Raffaele, siamo l'anima di Raffaele. Solo che Raffaele era più basso. L'unico che era più basso della famiglia. Sì, c'era anche cosa, Claudio. Claudio è basso, non è che sia alto Claudio. Anche Raffaele era basso. Però, insomma, era... No, ma questi, dai, però tu Emilio ti sostitui per i piazzati, là. Sì, Emilio, vabbè, già di Madrid un po', perché per il fatto di questa uscita, che era uscita dalla Francia, una specie di boccia di uscita, e gli ho detto, fino a quando non di Madrid, se non possiamo fare questa cosa per qua. Ma se fa oggi o a chi? Se fa chi siamo? Sì, a chi? Sì, ha comprato la casa lì, a chi? Ha fatto bene, almeno lì c'è poco rumore, e dorme tranquillo, si riposa tranquillo e pacifico. Era parecchio, anche l'ho visto guarda, l'anno scorso, ero a Cesaraccio, e lui era bene la fila. E va detto, esatto. Sì, lui di solito il venerdì e il sabato sempre, perché va dalle figlie a trovarlo e quindi in settimana già scende la ferocia. Ma di solito non lo so quasi mai, spiegare la zia. Non lo stavo riconoscendo. È già cambiato, però la fisionomia è sempre uguale, dai. Ma inizio la vaga, quanto arrivava? 70 anni c'è la vaga. Ecco, così che vedo un po', sta cambiando anche lui. Ma è sempre ben piattato, va? Sì, quello sì, però già... è di un già risciato, va? Come lo chiamo tu? Ah, va bene, l'importante è che lo schiattato, va? Che sia tranquillo, quella è la cosa importante. Però arrivato a 70 anni, sono tutti malati, per cui... e bisogna lasciare fare e tirare la faccia. Ok, se lo vedo saluta però, che dall'anno scorso non lo vedo, dai. Ma io non è che mi fare tanto peso, se lo vedo, io vedo quando c'è tutta mia zia, faceva la mamma, allora lo vedo, se non lo vedo male, è più di un mese che non lo vedo, non lo so. È diventato un casalingo anche lui, è una certa età, già voi, cazzo. Prima gli aggirava la mano, esattamente, se sta riposando, vai. Lo so, per cui ha lavorato, per cui la deve comere adesso, con buona salute, speriamo bene. Ok, comunque se cazzo è vero me lo saluto. Ok. Perché siamo stati sempre appiattati, va? Già lo so. Sì, così, bisogna tenersi in linea, piano piano. E come fai tutto? Cazzo, occhio però, si fa il vento, si butta, Sì, poi secondo me lo fai il vento, mi vengono pure i biondi. Meno male, si pensi allora, Mettiti in peso, prendete tranquillo. La madre del sesso lo si butta, Sì, sì. Ma giusto, la carina, se c'è la salata, la settimana fa, ho fallito. Ma dove? Ma aspetta, mi sento io, la macchina ci sto vedendo. Non credo. Adesso si può portare, va a te dove? Ma non lo so, se sei dicendo a me, non lo so. A me, da me visto che faccio il biondo innanto. Amo! Ah, se non posso allora il tuo giornale, non pesurai. Non credo io. Resta su fatti, però. Sarebbe tu, per tu detto. Grazie. E assistere bene. Fai bene, Emanuele. Io purtroppo devo rimanere così, devo rimanere. Meglio così, almeno sei da zero e se penso quando lo sento non esito o ti muore di biombi bussacca come hai visto. Magno ma non ingrasso, più di chi sono non anda. No, aumento sono di qualche chiletto aumento, ma non di più. Non mi penso. No, io sto sempre 70-72, faccio 72-2, non di più, sempre così sto. Ma che hanno già combinato niente basili, con un letto goso, sono dimagrito parecchio, sono dimagrito. Certo, che si faccia bene con le pastiglie, si fa del girino, ma non penso, Come pastiglia se li prende per quella patologia. Sì, infatti. Per il diabete e coso, se rimane così mi rimane, aumento di qualche chiletto e boom, ma no, non più di tanto, andava così. Penso che io sto giocando con lo stesso, e ce l'ho il peso, Cazzo, e ma si scarica subito le batterie in questo peso, boh. Mi mancano le mascherine, oggi mi prendo, ma le prendo e accorgo che appena arriva a fine. Certo. Ma tanto sono sicuro che peggio se per quello. Quando l'ho ricoverato sono stato una settimana senza digiuno, Era successo 9 kg, Mi sono senso, da allora sto sempre così. Infatti, è così. Quando io adesso devo rimettere le batterie che si sono caricate, nel peso le devo mettere. Infatti, ha fatto così il forzo, le metto quando mi devo appoggiare, le metto e poi le tolgo. No, sono di quelle piatte, sono due di quelle piatte. Ah, quella non è nuova, sono? No, sono di quelle piatte, quelle batterie piatte, rotondi. Ma che dico le altre forze, 3,2 sono, Manuele. Anche il mio è così, e io se lo ripeto, è così infatti. E quando ce le metto, poi a togliere, ragazzi, bevo i pisani, il gappo, una poca cavita, e poi è un casotto, allora non le tolgo mai. E così che si scaricano subito, capisco. E quelle durano di più, Queste qua, questo peso è sempre così, evidentemente, chissà perché. C'era un altro, infatti erano con lo stilo a filo e non si scaricavano facilmente. Mentre questi si scaricano, cosa vuoi fare? Infatti li devo comprare. E a pensare, li ho visti, adesso li prende e mi sono dimenticato. Sì, sono due di quelle piatte, a 3,2 mi sembra. Dov'è? No, se ne è andato al paese suo. No, ma se ne voglio già li trovo dappertutto, li vedrò tutti, vai. Anche se sono marcati, mi vedo. E l'altro molto paio, giuro, c'è la moda, ma che cosa? Quello c'è, sa quante volte ti faccio, mi dimentico sempre. Ma speriamo di aver ricordato, anche oggi sono zitto e per cui mi sono dimenticato anche io. Ah, non è una cosa urgente, dai, tanto Già lo so il peggio mio com'è. Ma il posto da portatore ce l'hai preso? Sì, l'ho preso io. A quanto tu? A 18 sono andato. Ah, sempre di scoglio, no? E mangiare i cristiani. Ma siamo noi che abbiamo cambiato lo fatto della piscina, capito? E poi pensavo sempre quelli lì, ma cambieranno anche loro, non lo so. Prima mi piacevano molto, adesso non mi piacciono più. Non le vado fatte come prima, cazzo, e poco ne mangiamo più prima. Sì, sarà un matto, siamo lo stesso. Sarà Sardini, fate se possiamo, che si rivolge al magazzino. Perché la mattina ci andava, con l'ottore, se la domenica. Andava a Rizzi di Mazzano, che conosci la scelta di Zagina. Sì, allora sai una volta in campagna, ci finiva, da me finiva a cotto. Dunque, quello è il portatore, Caterina, ma anche Caterina, che non mi ricordo lui come si chiamava. E ci veniva molto spesso a campagna, anche quasi tutte le domeniche. E una volta ha deciso di dire, già la facciamo, dice, le acciughe, sotto sale. Cazzo, mi ha regalato 6 cassette di cose, di acciughe. Si è messa sulla lì i cambisti del capo, ma poi cazzo il barattolento, cazzo, e poi non ho mangiato nel manco, cazzo, ce l'ha portato un suo e l'ha regalato, non mi piace a più, ma che stufata. Cazzo, mi ha regalato, ma lo stesso, mi ha regalato, se tu piace il trigo, dice la lambura regalava. E allora, ma è un bene, cazzo, questo cazzo l'avevo fatto, cazzo. Mi pare che c'era 4 cassette, 50 kg di sale che aveva prima la busta. E 6 cassette di acciughe, nostalgina, acciughe, cazzo, un sacco di secchi, cazzo, baffolini, e mira la gente in campagna, ah, che mi toccava. Oh, cazzo, ogni tanto mi dobbiamo dare ancora un'ultima, ma ci fa due, e allora la regalavo, e poi si sta portando un merenzuetto, capito? Ah, si è come si chiamava, è il marito di Caterina, ragazzi, ah, te la metto. Caterina, ah sì, a lui. E come si chiamava lui, non mi ricordo, boh. De Roma, aspetta, De Roma, il cognome si chiamava lui. De Roma non me lo ricordo, però già ce l'ho, già me lo ricordo. Certo. La voce, sei il gassetto la cavalcata, boh, cazzo mi sta dicendo 3 o 4 rispetto che si acciuga, un bene abbiamo fatto, capito? Che poi, rispetto, non l'abbiamo mangiato, l'avevo regalata e la maggior parte sta portando a Edu, cazzo, boh, ce la vendia Edu. Mamma lo stesso, mamma lo faceva tutto il sottosale, l'oliva lo stesso, la confetta, quello di venere piccolino, le vasi aliata, cazzo, le vasi a ducco, era pure a regalare. Marcello, cazzo, cazzo, bisogna queste cose per cui, la gentilità va a farle per cui, cazzo, ma... Fatti carino, l'avevo bigliato, per carità, però qualcuno già l'avevo mangiata. Quando lo mangi troppo, da voi cominciate a tuffarsi la cosa e non ti piace più, tutti i figli. Come c'è la ghisa, ma senti. La ghisa, cazzo, ma forse la ghisa era mia, tutti i malini partiti. Se l'avevo tuffato la ghisa, l'avevo raffata. Già lo dico, a forza di pesce. Certo, scusa, così è tu, a te gli acciughe sono fatti a tutti. No, proprio quelle non le mangio io, sardine e altre cose, però proprio le acciughe non mi piacciono. Sì, le gambe ti piacciono a te, buonasera a tutti. E poi era roba sarda, capito? Non era di furia. sicché era piccola, ma sta pulita, cazzo. Però era troppo, Mi avevi lasciato su un baratto secchi, cazzo. Ti puoi immaginare, cazzo. Ciao Maria, buonasera. Buonasera Giovanni, ciao Filippo, ciao Tore. Tore, sto cattivo di gamberi, non ti piacciono? No, proprio che se non mi piacciono. Ci sono gamberi, capo per umano. Però lo spezzatino non ando d'accordo. Buonavento, è tu sedizioso. Non sei come Fiorellino. Vengo Fiorellino. Ehi Mari, buonasera anche a lì. Ehi, non sono vizioso io, vai. Io sono vizioso, è buono lo spezzatino di gamberi. E anche le acciughe, le acciughe sono buonissime. Io le faccio mettere nella pizza oppure anche a parte. Avanti Gio Maria, comunque buonasera a tutti, qua c'è un po' di venticello, nuvoloso e su che andiamo, avanti Gio Maria. Come si chiamava quel passatore, quel caterina di Roma, gatta, non me la metto di nuovo come si chiama, affa, dove la metto, a te la metto marito? No, non ho capito, scusa, sono distratto, quello che? Marito di caterina che parlava al baracchino di Roma, come si chiamava di nome? Non mi ricordo, ce l'ho sulla punta lingua, non mi ricordo, non ho capito che sta dicendo, non mi ricordo proprio. Poi ho due ricordi tu, che c'è la bambina mia più forte della mia. Poi, pensa a me, fatta facciamo voglia, più lunga di raduglia, su che? Ma io se ne ammenta. Su 7 anni, purtroppo anch'io. Cioè, no, ho già capito che, però non ci ho preso proprio. Avanti, Fiorellino, qua sei, fuori servizio? Fuori servizio, sono la nuova stamattina, Marisa, alle 5 fino alle 3. Ma mi sono anche riposato un pomeriggio perché sono andato con l'ottore, già fanno un po' di spesa. E sono trovato un'ora fa. E avanti, ricurico, che domani mattina si fa maglia, dalle 5 fa. Ho capito, non sei andato dove ho detto io, no? No, hai detto che mi mandavi l'indirizzo. Ah, capito, mi dice che vabbè, già ti faccio ancora sul cellulare, dai. Già ti dico sul cellulare. Anzi, Giovanna. Ok, beh, non più tanti ogni marito, dai. C'è da fare con chi sentivamo così bene. Sì, io lo so. Cosa gli devo dire? Mamma, qua arrivi abbastanza bene, guarda. Arrivi abbastanza bene, sono anche un po' lontano da te. Qui arrivi a oggi, arrivi Santiago 9 qualcosa. E la radio 5, l'ultimo segnale. Adesso un termino messo sul balcone, c'è anche il palazzo da fianco. Sì, l'ultimo, va benissimo. Guarda, per me non compare nulla che non vale nulla, Emanuele, non vale nulla che non vede nessuno, per due chiacchiere con la recente ce n'è anche abbastanza, no? Va benissimo, io ho fatto qualcosa perché è per usare sul tetto, quindi mi interessa, capito? Io faccio se vuoi, ma per colpo, cioè per questo, quindi per quello l'ho fatto, capito? Tutto qua, se no basta un termino, oppure basta la canna presa, la tua qua e mi sento che è un bambè, mi ascoltavo tutti a casa, io non so per sapere, ci avevo tutto quanto e l'abbiamo fatto così. Un altro progettino ce l'abbiamo fatto. E sono contento, poi non so come uscito, perché quando voglio tiro la mano a vero, abbasso, faccio quello che fare e poi la sollevo. Tranquillo, sereno, senza chiamare nessuno e niente. E non sono anche preoccupato di stare sul tetto. Tutto qua. Bene, avanti Giovanni. Avrei fatto Greco. Quando fate, guarda un po' come le piantate. Senz'altro, rimane a farti dietro, no, gli altri. Esatto, ti ho mandato il messaggio, domani, guardatelo com'è. C'è stato un break, buonasera, avanti. Buonasera a tutti. Buonasera. Manda lì sempre a farti a te, vai Mari. Giovanni, ti chiedo scusa, ma mi sembra stato modulati con Antonio, con Antonio. Cosa stai dicendo Giovanni, scusa? Ho letto, già l'ho letto, per cui ho già, quando devo mandare, manda tranquillo, già, fa piacere, vai. Sì, già so, ma io già lo so, quando sono il bersaglio, quando sono due minuti già faccio, vai tranquillo, non preoccuparti. C'è stato Antonio, Antonio avanti, che vi siete, siete modulati? Forse mi hai fatto entrare poi a Rebrugio Maria, non è successo nulla. Buonasera, buonasera a tutti. Ben stato, Antonio, avanti Fiore. Ok, ciao Manuela, ben sentito, dai, la prendo, prendo un messaggio più tardi, dai, tranquillo. Alla prossima, avanti te. Sì, ciao Manuel. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Manuele, alle prossime. Scusa che devi digerire quei polpi. Vi siete sapere. Giovanni, vedi, ti veloce al dito troppo veloce. Hanno attacco, dottore. Che Giovanni c'ha il dito troppo veloce oggi, Sta fregando a tutti. Bene, è bravo. Adesso sei saltato. La verità era addormentato. Io ho fatto un bel viaggetto con la moto, è stata un'avventura oggi, perché poi mi hanno chiamato dal nido, a me quando mi si, cioè, quando c'è qualche problema poi mi incrippo, divento in cazzo tutto. E quindi ho fatto un mezzo casino, cazzo di pubblicità a coso. Addirittura sono andato la Santa Maria Coghina, se sono andato. Da poi come è successo, in base, forse metto un poco di chilometri, immagino che siete 4 anni, cioè. Poi l'ho preso, sono rientrato dietro, cazzo sono riuscito a staccare, cazzo sono riuscito, anch'io, ho fatto muros, tutta quella cemento piccio lì, e poi ho giubilato a Carlo di Gioca a Sassari. Non ho girato nelle gallerie, ho girato a Scala di Gioca. È un'avventura che sta molto, vado si sciogliendo da dopo. Perché poi quando io mi nervosisco che le cose non vanno bene, sbaglio pure. Va bene ogni tanto, fare la gita. Hai fatto una bella passeggiata, oggi non è stato finito. Io mi ricordo che in me c'ero io, mio compare, lui c'aveva gli anelli e lui c'aveva un altro, e due canelli avevamo, poi facevamo Sassari, l'Argentina, a casa stava, qui si asciuga il motore là. E poi stato in due, c'ero io la mia ragazza e lui la ragazza, tutti andando. E ci diciamo, io facevo una bella passeggiata, l'abbiamo mangiato a chilometri. Allora, qui giovani? Se la moto lo permette, allora si può anche andare. Io quando ho 125 gusti lo sornello, che avevo lo sornello, sono andato a staccargli, è tornato e è andata bene, per cui se la moto è a posto può fare tutto quel viaggio ed è tranquillo, capito? Vai tu. Io ti credo, di moto oggi gioco una moto già buona, ma da freddo. Adesso non c'è freddo ancora, no? La sera tardi magari qualche un po' di freschetto, ma cazzo, ancora freddo non ce n'è, cazzo. Poi andavi in bicicletta da Sassari a Manari, 35 chilometri, cazzo, quando ero in Amorelli, cazzo, e ho sempre, ora la poltrona e andavo in bicicletta. Senti bene, Giovanni, senti bene. Stai sbucciando caramella? Ho sentito un rumore che stai sbucciando. No, c'avevo il pennello con la custodia. Hai detto, dai, sta mangiando caramelle. Antonio, salutato, avanti Giovanni. Otto, ma metta lei la tenda. No, non dava ancora, non vi si è ammazzati. Se ci vede, ho passaggio, aveva cominciato un freddo, a sopra, anche a metturato. Quando è comodo che d'altro, che non fa di vento e che c'è una bella giornata, saliamo. Oggi si stava bene, oggi si poteva piantare, non era freddo oggi, vento non ce n'era, per cui era una giornata tranquilla. Ma non c'era lui, questo qua non c'era, stava lavorando. Si può fare il sabato, la domenica che non lavora. Ciao. Caldo forte un po' bello. E vabbè, allora aspettate magari di quando lo lavora, che se fa il tempo bello ve la piattate. Ma speriamo che vedessimo. A sperare sempre che fa il tempo bello, ragazzi. Sto zia Maria. Esatto, speriamo faccia il tempo bello, che non piova. E non è domenica. Diciamo qua è un po' nuvoloso, c'è un po' di venticello, ma dovrebbe passare, diciamo che iniziamo, al tempo suo, vai, confronto a confronto al continente, diciamo che stiamo abbastanza bene, qua, non ci possiamo lamentare, non si può. Scusa tu, che non sono distretto, che non ti voglio piazzare. Mantenna al televisore, che c'è facendo un nuvo, si è rotto e si è puntata sulle tegole. Adesso si vede il primo, il secondo, il terzo, canale Italia 1, canale 5, rete 4 si vede. Ah, capito. Ma com'è, come diciamo che mi stanno dicendo che non ci siamo trovati, sono stato il giro di solito in terra. Allora, va bene, non ci sto digitale, basta solo un intendo, basta solo un intendo, la prossima cosa c'è questo. Io per il caso qua, l'altra è scesa, e c'è solo un intendo, ha puntato un intendo, e io sono più cattolo, perché il signore arriva, mi arriva a bomba il signore, mi arriva neanche troppo alto, troppo corto, diciamo. E si vede tutto. Bene, un altro giornale. Là, prima quando era la luce, quella cassa saltella la vedevo la TV, perché è tutto libero da casa a Monteoro, capito? Chiaro che adesso non l'ho provato, io l'ho messo, ne ho messo una sola, sono da fabbrica, ho preso l'antenna, l'ho piazzata, solo un'antenna, vabbè, e si vede tutti i canali con l'antenna. Esatto, le tecnologie bastano l'antenna, io non ho preso prima la mia scossa, ma mi sta così proprio, cioè c'è Monteo di fronte proprio, si vede dal quarto piano, Monteo di fronte, si vede dalla testa, poi non si vede attraverso un canalino con l'acqua, e lì si vede abbastanza bene. E uno ha fatto l'impianto nella camera di mia socia, diciamo, e si vede tutto quanto. Perché questo? Perché c'è un libero piano, e a quarto piano, comunque c'è l'antenna, non c'è di fronte proprio, tanto per quello. Avanti c'è. E infatti è così, purtroppo. Quindi non si può fare. E lì c'è l'antenna centralizzata, no, forse per quello, capito? E lì forse ci vogliono, penso che ci vogliono tutte e due, prima e seconda, alla centralizzata, non lo so, non lo so, io ho cambiato da poco, mi sembra 2 anni fa, però ci ho messo prima e secondo e alla centralizzata è già stato usato bene. Ecco, la cosa dovrebbe essere così alla centralizzata. E ormai che non è solo l'antenna, ormai si può digitare, basta solo l'antenna e di tutto. Non è come una volta, con 2 antenne, io prima avevo 2, e la fine con la rischia di una città che poi si è io ho guardato, ho venuto un amico e abbiamo lasciato l'altra, e l'altra è una sola fa da un, fa tutto, perché è digitale ormai. E poi non c'è un motore di fronte, come ci avete voi. Quindi anzi segnale anche se non c'è mi arriva. Eh beh, là te tu sei libero lì, già non credi che arriva bene, per cui sei libero. Ma anche noi siamo liberi, non è che ce l'abbia, ma storia non è che abbia palazzo davanti. L'antenna del motore è libera a casa sua, è come libera da me, per cui basta un'antenna e tutto. Ciò c'è la, anche la centralizzata, ma questa che sto usando adesso, questa camera, è sicura dall'altra parte. Qua c'è un'antenna solo e ho visto che ci sono tutti i canali e va benissimo, capito? Non lo so le antenne centralizzate come sono. Ormai le centralizzate le metto solo una, basta solo una. Se alcune se mettono ancora due, ma basta solo una. Con una fai tutto. Con l'antenna fai tutto, sai. Fai tutto, però la gente ormai. È tutto cambiato, avanti. Infatti è così, è tutto già andato così. Ah, lei qua, il tecnico, quando è venuto ha messo il primo l'antenna a larga banda. ammesso, perché è centralizzata, è più la centralina nuova. E voi ci avete centralizzato il palazzo? Infatti, si è cucata, si è puntata sopra le tegole, si è puntata. No, se no un coso dei canali li vediamo, poi tutto il resto non si vede. Non si vede, è coperto, diciamo, là. Si è appoggiato al tempo, è molto coperto, per quello è chiuso. Purtroppo così. Stamattina ho visto il suo collega, a Torino. Andrea Uno. Stamattina ho visto il suo collega sua, di passaggio. Non stavo già riconoscendo, era quella meglio. Sempre piccoletto, sempre da tutti. Avanti domani. Ok, grazie a tutti, Mario Raggi, Pochino. Buonasera, non presumente, saluto in casa, ci sentiremo alle prossime. Saluto anche a Torre, Torre, prefettura, io chiuso. Buon presumente, saluto in casa anche a te, dai, ciao. Ciao Giovanni, ci risentiamo alle prossime, ci risentiamo, ok. Mari, io mi devo prendere le pastiglie e chiudo anch'io. Ci risentiamo alle prossime, ci risentiamo. Ok, ciao Mari, a risentirci. Ciao a tutti. Ciao Anto, a risentirci alle prossime. Ok, dai, adesso mangio io. Ok, ciao, devo sentire, mi saluti la signora. Ma io qui la conosco di minuti già una vicina. Ciao Torre, mi sei tutto, il dottore, ciao la signora, ci sentiamo alle prossime. Allora ti do il segno della scappa. A mangiare se andiamo da te. Sì, adesso sveglio una cipollina, sveglio e mangiamo. Che non stava molto bene oggi. Sì, anche te, anche mi sento con un nuovo parasito, perché tutto quanto l'ho pregato, oggi stava tutto sudato, c'è un cappello, era tutto, e stavamo giocando fuori, tutto quello, tutto nuovo era lì, quindi va bene, tutto va in relazionale, non vedo ci pulito, vai, ci sentiamo al prossimo, ciao a tutti. Ho cazzato la roba e arriva un bel forte, oggi, se 9:25, sì. Sta toccando va e viene col 30, capito? Perché mi sono messo, mi sono giornata a sotto accesso anche tu, è per quello. No, no, ti giuro, sei bella forte, sì. Se usavo, sono due più bassi, forse, due più bassi. Sei fortissimo, te lo dico già. E insomma, due più bassi, se voi durante me assolete, ma ho deciso di lasciare la vita in momento. Se non ti lascio com'era, anche se non ti senti tanto, questa madre qua all'inverno, a piegare è un po' difficile, non me l'ha mai piegato il tempo, anche la sua volta, però, qualcosa, la base settimana, c'è già la crocetta, già pronta, e mi vogliono che senti tanto, così non si sa mai, dai. Ok, ancora ti sento il vestito di funzionare, di la cipollina. Qui c'è sempre 9:20, radio Super 5. Ci sentiamo al prossimo, ciao. Ciao, ciao Maria. Sì, lo so che io sono sempre forte. Ok, io mi trovo benissimo con questa GPS, questa gara radiale. Mi trovo mai bene con questa antenna. E allora così non mi avvaro, non mi accendo mai, se va bene. Se va bene lascia così, ma la cosa è da intanto io. Con due chiacchiere non facciamo, dunque, basta, se non c'è troppo, non c'è troppo. Ok, c'è un messaggio, forse mi avrete aggiunto, ci sentiamo al prossimo, ciao, grazie. Ciao, Mario.